I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Oggi tutta l'attenzione dal punto di vista economico si concentra sull'incontro che avverrà tra il nostro ministro dell'economia Padoan e il commissario europeo Vestager per quello che riguarda la soluzione proposta da Roma in tema di crediti inesigibili delle banche. Un incontro importantissimo visto il brutto inizio settimana che hanno avuto i titoli bancari a Piazza Affari. Rischia però di sfuggire una notizia che ha diffuso ieri l'Istat, ossia il bilancio su come è andato il 2015 quanto a esportazioni italiane. È un bilancio assolutamente positivo. Le esportazioni fuori dall'Europa sono cresciute del 3,6% e questo nonostante il 2015 abbia visto una nuova recessione economica in Russia, il rallentamento forte dell'economia cinese e l'entrata in recessione di un'economia fondamentale come quella brasiliana. Va infatti dato merito alle nostre imprese, piccole, medie, grandi, e una volta tanto anche al lavoro svolto con le istituzioni di questo paese, se si è ottenuto un risultato contro ogni previsione. Sono risultati premianti sia la qualità dei nostri prodotti che le strategie commerciali adottate nei vari paesi fuori dell'Unione Europea e anche l'ottima penetrazione dei prodotti italiani nel mercato statunitense, l'unico in questo momento a garantire anche per il 2016 tassi di crescita positivi. Certo, si può fare ancora meglio, ma è comunque un buon dato che dimostra lo stato di salute delle imprese italiane quando vanno a affacciarsi su mercati esteri e spesso difficili. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. È ancora solo un progetto e servirà un po' di tempo per vederlo approvato definitivamente, ma già oggi possiamo dire che il disegno di legge sulle partite IVA, sui liberi professionisti, che dopo domani verrà esaminato dal Consiglio dei Ministri, avrà effetti importanti sulla vita di milioni e milioni di lavoratori. È una specie di Jobs Act del lavoro autonomo, forse potremmo dire uno statuto del lavoro autonomo. Arriveranno norme davvero innovative, a partire dalle tutele previste per la maternità e per i congedi parentali, nuove disposizioni a maggior tutela dei congedi e delle malattie oncologiche. Su un ambito diverso ci sarà maggiore attenzione a formazione e aggiornamento professionale, prevedendo la possibilità di dedurre integralmente queste spese e non con i limiti che sono previsti oggi. Arriverà poi un'altra norma molto attesa, perché il disegno di legge sul lavoro autonomo sancirà per le partite IVA e i liberi professionisti la disciplina a regime per l'accesso ai fondi europei. In pratica queste figure verranno equiparate alle piccole e medie imprese. In pratica, grazie all'inserimento di questa norma nello statuto del lavoro autonomo, non sarà necessario rincorrere ogni anno una legge per garantire ai professionisti il diritto di partecipare ai bandi, sia per quanto riguarda la programmazione nazionale, sia per i piani di finanziamento regionale. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.